Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. L'attività fisica, in modo particolare quella aerobica, protegge il nostro cuore e rende l'aterosclerosi meno rischiosa. A Obiettivo Salute il professor Claudio Tondo, responsabile di Monzino Sport. Confermo che l'attività fisica, soprattutto a carattere aerobico, quale la corsa, la camminata a passo svelto, il ciclismo, rimane comunque un caposaldo per una protezione cardiovascolare. In realtà l'aterosclerosi, quindi l'irrigidimento delle arterie, è presente in tutti noi, ma l'attività fisica ha un effetto protettivo, cioè riesce a rendere sostanzialmente meno pericoloso il processo di aterosclerosi e quindi pertanto anche nei soggetti sportivi che hanno le placche in realtà si sviluppa un'azione protettiva. E a proposito di corretto allenamento, tra poco in diretta video con Mike Maric parleremo proprio di come usare il respiro, perché respirare bene può cambiare la performance sportiva. Provare per credere. Curcuma rabarbaro, zenzero, barbabietola, la terra racchiude un tesoro. Se ne sta parlando in questi giorni a Imola, in provincia di Bologna, dove si sta svolgendo il Baccanale, un'interessante rassegna enogastronomica. A Obiettivo Salute la professoressa Silvana Creglia, docente di biochimica della nutrizione al Dipartimento di Scienza per la Qualità della Vita all'Università di Bologna, ci insegna come portare a tavola i tesori della terra. Aglio, composti solforati, di cui è noto l'effetto ipotensivo, anche i nonni sapevano che si mantiene la pressione bassa mangiando dell'aglio. Lo zenzero contiene delle sostanze nutraceutiche polifenoliche, fra cui una che si chiama gingerolo, che ha delle proprietà antisettiche, depurative, antiossidanti. La curcuma, che va tanto di moda, addirittura ha delle proprietà neuroprotettive. Attenzione però che i nutraceutici della curcuma sono poco biodisponibili, quindi per ottenere l'effetto benefico bisognerebbe assumerne delle quantità notevoli. Rabarbaro, con il suo caratteristico colore rosso, ricco di antociani e di polifenoli, con proprietà antisettiche, disinfettanti e antiossidanti. E in chiusura vi segnalo che da oggi parte una nuova rubrica, Caro amico ti scrivo, aspetto le vostre storie, i vostri propositi, le vostre sfide. Oggi partiamo con la mail che mi ha scritto Giuseppe, che racconta la storia del suo cane guida, Willy. E per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 come sempre prosegue con Melog, io vi aspetto in diretta video con Mike Maric, con lui impareremo ad essere padroni del nostro respiro. Un saluto da Nicoletta.